Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, due soprattutto, che cercheremo anche per quanto possibile di tenere assieme. Da un lato, come i nostri GR24 vi hanno già raccontato, lo scontro governo sindacati sul sciopero, ma soprattutto sulla riforma del mercato del lavoro, con la frase poi corretta parzialmente dal leader della FIOM Landini sul fatto che gli onesti non starebbe, che Renzi non avrebbe il consenso delle persone oneste, dei lavoratori, di chi il lavoro lo cerca. Poi corretta, ha detto Landini: non ho mai pensato che Renzi non abbia il consenso degli onesti, non ha il consenso della maggioranza delle persone che lavorano e pagano le tasse. Questa è la parziale correzione, poi uno può pensarla come vuole. E poi Landini dice a Renzi: da solo non cambi il paese, così risponde solo ai poteri forti. Ancora la risposta del governo, invece, tra l'altro non ha parlato neanche lo stesso Renzi, hanno parlato altri esponenti del governo. E poi tratteremo anche la posizione di Confindustria, nel senso che il presidente di Confindustria Squinzi ha detto al Presidente del Consiglio che c'è bisogno urgente di rilanciare la crescita in Europa e che Confindustria è consapevole degli sforzi del governo per realizzare le riforme strutturali che l'Italia aspetta da tanto tempo. E poi Squinzi ha anche risposto in parte a Landini dicendo: io mi ritengo una persona onesta, ancor più di onesto, per quindi questa era stata la risposta molto fredda a Landini. E poi Squinzi ha aggiunto: abbiamo bisogno di un nuovo clima di relazioni industriali. Di questo parleremo tra poco, tra circa 20 minuti, tenendo assieme un altro elemento forte che non riguarda solo la riforma del mercato del lavoro, il Jobs Act, e le posizioni dei sindacati, ma la posizione di Mario Draghi oggi, che non interviene ovviamente sul mercato del lavoro italiano, ma interviene sulla situazione economica dell'area euro, definita dal Presidente della Banca Centrale Europea sempre più difficile per quello che riguarda l'inflazione. E poi aggiunge Draghi: servono le riforme per rilanciare gli investimenti, un'accelerazione della ripresa economica appare molto improbabile nei prossimi mesi, tant'è che la Banca Centrale Europea è pronta ad ampliare l'acquisto di titoli. E nel suo intervento si teneva a un congresso, ha parlato a un congresso a Francoforte, ha citato esplicitamente il quantitative easing fatto dalla Banca Centrale Americana e da quella giapponese. Che cos'è? È lo stampaggio di moneta, l'abbiamo raccontato, realizzato come lo Stato emette debito, titoli di Stato che vengono comprati dalla Banca Centrale, e per farlo la Banca Centrale emette moneta, batte moneta, potremmo dire. Non è esattamente così, ma è per far capire a tutti. Allora, il fatto che Draghi abbia detto metteremo in campo tutte le misure necessarie per combattere la scarsa, bassa o inesistente inflazione, siamo pronti ad ampliare i canali di intervento, la ripresa, un'accelerazione della ripresa è improbabile nei prossimi mesi e potremo ampliare l'acquisto di titoli, ha fatto subito reagire la borsa, che infatti adesso guadagna il 3,53% a Milano, il 2,60% a Parigi, il 2,60% a Francoforte, l'1% a Londra. Non a caso Londra non è nell'euro. E l'America più 0,70%. Perché? Perché vanno bene le banche, perché le parole di Draghi sono state lette come devono essere lette, cioè come una Banca Centrale Europea che non ha esaurito tutti gli strumenti a disposizione. Tant'è che nel frattempo, dopo le parole di Draghi, anche il rendimento dei nostri BTP a 10 anni è sceso al minimo storico, lo spread è sceso a 146 punti e il rendimento dei BTP a 10 anni ha toccato livelli appunto storicamente mai visti prima. Anche di questo parleremo. Faccio notare che c'è poi una dichiarazione del ministro alle finanze tedesco, il Falco Schäuble, Wolfgang Schäuble, che ha detto: l'Europa deve urgentemente cambiare i trattati, almeno per l'area euro serve un rafforzamento della governance economica con un ministro delle finanze per tutti i 18 paesi. non voglio dover difendere l'euro per i prossimi 5 o 10 anni con l'attuale governance. E su questo è intervenuto anche il ministro Padoan, che ha detto serve un'azione più forte da parte dell'Unione Europea. Va bene, è giusto che probabilmente l'ipotesi di un ministro delle finanze europeo è un'ipotesi anche corretta, basta che non sia tedesco, diciamo, basta che questo non porti a dire che la Germania vuole avere ancora più presa sulle decisioni politiche e economiche europee, perché mi sembra che ne abbia già tanta e a mio avviso troppa. Ancora dicevamo della borsa, vediamo i titoli: più 5,77% Mediolanum, più 5,30% Unicredit, più 5% Banco Popolare. E poi sempre sul fronte banche, la Popolare Emilia Romagna più 4,70, Intesa più 4,5, UBI Banca più 4,30, Pop Milano più 3,80. Tra i non bancari, molto bene, Atlantia più 4,80, Enel più 4,70, Mediaset più 4,60, Eni più 4,50, Buzzi Unicem più 4,20, Prismian più 4 come CNH Industrial. Di negativo non c'è nulla, il titolo che guadagna meno è Telecom Italia, che pure guadagna l'1,5%, quindi ottima la giornata. L'euro, non a caso dopo le parole di Draghi, si è indebolito in maniera visibile, viaggiava ieri a quota 1,2540, adesso è sceso quasi sotto quota 1,24, 1,2390, 1,2404, e anche questo è frutto delle parole di Mario Draghi. Però lo dico subito, poi partiamo con la notizia in breve. Qui abbiamo due reazioni, due mondi. Uno è la reazione delle borse, dei mercati alle parole di Draghi, festeggiano il fatto che la Banca Centrale possa fare interventi più forti. L'altra è la reazione dei cittadini europei, che prendono atto, o dell'area euro, che questa ripresa non si rafforzerà, sarà debole, che l'inflazione resta un grosso problema e che lo stesso Presidente della Banca Centrale Europea è talmente preoccupato da ipotizzare strumenti o un rafforzamento degli strumenti o strumenti anche nuovi. Quindi quello che fa festeggiare, diciamo così, la borsa preoccupa invece i cittadini e chi vive la vita reale nell'area euro. Allora, in realtà un titolo negativo adesso c'è, se vogliamo cercare, ST Microelectronics meno 0,40%, però ripeto e confermo l'andamento più che positivo di tutta la borsa, adesso rialza del 3,60% a 19.900 punti. Altre notizie, volete sapere giustamente quanto rende il BTP a 10 anni italiano, sceso al minimo storico, il 2,24%, il rendimento lordo pretasse, per cui veramente mai così basso. Questa è una buona notizia per lo Stato italiano, che non ha mai pagato così poco per indebitarsi, o meglio per trovare finanziatori per il suo debito. Jobs Act, al di là della dichiarazione del Premier Matteo Renzi, che ha detto attenzione, il lavoro non si salva con le polemiche ma tenendo aperte le fabbriche, risolvendo le crisi industriali, non giocando a chi urla più forte, il ministro dell'economia Padoan, sempre sul Jobs Act, sulla riforma del mercato del lavoro, ha detto le proteste segnalano che le riforme probabilmente vanno nella giusta direzione e il Jobs Act sarà approvato nel giro di poche settimane. Novità oggi anche sul fronte però della legge di stabilità, la legge finanziaria. Allora, agli ammortizzatori sociali saranno destinati altri 400 milioni in due anni, 200 nel 2015 e 200 nel 2016, quindi al miliardo e mezzo per gli ammortizzatori sociali si sommano altri 400 milioni, in realtà 200 per l'anno prossimo e appunto 200 per il 2016. Il bonus bebè sarà solo per i nuclei familiari che presenteranno un ISEE non superiore ai 25.000 euro, e la soglia di reddito precedente era di 90.000 euro, non si prevedeva l'uso dell'ISEE. L'assegno raddoppia per chi non supera un ISEE di 7.000 euro. E ancora polemiche sulla social card agli immigrati. In un tweet ci è tornato su anche il Ministero del Tesoro, che ha detto l'emendamento evita che tutti i beneficiari debbano restituire i soldi di gennaio-marzo 2014. Sostanzialmente cosa è successo? La norma introdotta con la manovra dello scorso anno e che già includeva una sperimentazione in 12 comuni con più di 250.000 abitanti, è una norma a favore degli immigrati con regolare permesso di soggiorno. Un emendamento del governo all'attuale legge di stabilità estende il beneficio a tutti gli extracomunitari, vale circa 40 euro al mese. La social card per gli extracomunitari viene caricata ogni due mesi con 80 euro in base ai fondi messi a disposizione del governo. Attenzione, non è ancora legge, la legge di stabilità va in discussione, appunto ci sono gli emendamenti, e infatti il nuovo centrodestra è contrario a questa misura. Poi cambia qualcosa per i comuni a favore dei comuni. Il taglio complessivo di 1.200.000.000 chiesto ai comuni come contributo, diciamo, alla legge di stabilità resta, ma non dovrà più essere coperto solo con la spesa corrente. E quindi i tagli potranno riguardare anche gli investimenti, cioè non è solo la spesa corrente di bilancio che devi ridurre per un totale di 1.200.000.000. Questo è un emendamento all'interno di un pacchetto di emendamenti del governo per andare incontro alle richieste degli enti locali. E poi per i comuni che si uniscono in un'unica amministrazione arriva un grosso vantaggio, a mio avviso, poi sappiamo che è difficilissimo unire i comuni in questo paese, però arriva l'esenzione dal patto di stabilità interno per 5 anni, quel patto che spiegavamo anche ieri che impedisce ai comuni virtuosi di spendere. È uno degli emendamenti anche qui presentati dal governo alla legge di stabilità per dare ossigeno alle amministrazioni comunali. Quindi poniamo due comuni che avessero in cassa qualche milione di euro, parliamo anche di piccoli comuni, che si dovessero unire in un'unica amministrazione, potranno spendere questi soldi, non saranno più bloccati per i prossimi 5 anni dal patto di stabilità interno. Per quello che riguarda invece il canone RAI, oggi novità di rilievo sulla vicenda di ieri, l'abbiamo definita sconcertante, ma dice oggi il presidente dell'autorità per l'energia, Guido Bortoni, ha detto che vede molti problemi nell'inserire il pagamento del canone RAI nella bolletta elettrica, così come potrebbe prevedere la legge di stabilità. È una modalità impropria di riscossione ed è di difficile applicazione, così appunto Bortoni. Costi dei conti correnti italiani, della gestione dei conti correnti ordinari in Italia, sono calati per la prima volta, lo riconoscono le associazioni dei consumatori, ADUSB e Federconsumatori, sulla base di uno studio, però sono calati praticamente a 311 euro in media, ma segnalano i consumatori sono del 173% più alti rispetto alla media europea. Banche si occupa oggi di appuntamento quotidiano con i 100 secondi di Radio 24 che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, come sempre curati dai vice direttori del Sole 24 Ore. L'autore oggi è Alberto Rioli, che si occupa però di banche americane. Già abbiamo raccontato la settimana scorsa della mega multa, ne sono arrivate delle altre. La mega multa, la prima, fu data per la vicenda Libor, e non c'è giorno praticamente, come ricorda Alberto Rioli, che non arrivino notizie di nuove multe alle banche statunitensi. Monte dei Paschi di Siena, banca dal 1472. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Rioli. Quasi non passa giorno senza una qualche notizia sulle malefatte delle grandi banche americane. Ieri il Senato USA ha concluso un'indagine durata 2 anni sulle 3 big del credito a stelle e strisce, JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley. La tesi è che queste banche hanno speculato in modo irresponsabile sulle commodity, le materie prime, fino a mettere a rischio la stessa stabilità finanziaria del paese. In vari modi questi 3 big del credito avrebbero aggirato o eluso i limiti che la legge americana impone alle azioni speculative per le banche in questo campo, facendo così operazioni borderline su materie quali l'uranio, il rame, l'alluminio, il petrolio, grazie alle quali naturalmente sono aumentati anche i bonus dei manager che le hanno gestite. Le autorità di vigilanza e controllo, sempre secondo i senatori americani, o hanno fatto orecchie da mercante o non hanno saputo svolgere il proprio compito. Del resto è l'ennesimo colpo alla reputazione delle grandi banche globali. Le banche italiane, va detto, non c'entrano. I grandi nomi del credito planetario hanno già pagato circa 200 miliardi di dollari in multe e sanzioni per aver attuato comportamenti fraudolenti sui tassi interbancari, Libor ed Euribor, quelli da cui dipendono i tassi dei nostri mutui, sui derivati e sui mutui subprime. Ma, come dimostra l'indagine del Senato americano, non è certo finita qui. Le principali 8 banche del mondo hanno già accantonato in bilancio 8 miliardi di dollari per il rischio di ulteriori multe. I fondi sono un nulla rispetto a un altro capitolo che le autorità di controllo hanno aperto in questi giorni, la manipolazione dei tassi di cambio. Si tratta di un contenzioso che nel complesso potrebbe valere fino a 40 miliardi di dollari e finora ha dato origine al suo debutto a multe per altri 4 miliardi di dollari. La lezione comunque è chiara. C'è qualcosa, e forse ben più di qualcosa, che non va nelle regole sulla vigilanza della finanza americana. Non avete anche voi la sensazione che finora abbiano coperto i furbi e le loro furbate? Così appunto il commento per i 100 secondi di Radio 24 di Alberto Orioli e prima di arrivare alle decisioni di Mario Draghi di oggi vedo moltissimi commenti, nel frattempo la borsa continua a accelerare, siamo vicini al 4% di rialzo, più 3,85%, c'è un mondo finanziario, lo dico rispondendo a molti messaggi, che legge in maniera diametralmente opposta al mondo non reale, perché anche quello è un mondo reale, c'è gente che realmente guadagna oggi in borsa, ma al mondo di tutti gli altri cittadini europei, per cui la borsa può festeggiare quanto vuoi, ma io sono più preoccupato che contento dopo che sento Draghi elencare un orizzonte, diciamo, non in rasserenamento e anzi senza una vigorosa ripresa. Poi è chiaro che chi investe in borsa è contento perché dice a questo punto Draghi salverà ancora di più i sistemi e va a comprare titoli bancari e non solo. Ma chi se ne frega, la cosa importante è preoccupante è che nemmeno Mario Draghi vede una ripresa e robustirsi, anzi. Oh, parliamo anche di buone notizie prima di arrivare appunto a Draghi e allo scontro governo-sindacati. Parliamo del protocollo di Milano o della dichiarazione di intenti sul protocollo di Milano che è stato proposto in vista dell'Expo 2015 dalla Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition. Il documento presentato ieri al Premier Matteo Renzi nello stabilimento da Barilla, dove poi Renzi ha parlato, le contestazioni vengono raccontate nei nostri GR24 anche questa mattina, alla presenza sia del sindaco della città Federico Pizzarotti che di Guido Barilla, che è presidente della multinazionale alimentare Barilla. Ha seguito non tanto la parte politica di Renzi, ripeto, quello è materiale per il GR24, ma il protocollo in sé, che poi deve essere funzionale a un Expo tutto giocato sull'alimentazione sostenibile. Dicevo, ha seguito questo protocollo e come vi si è arrivati il nostro Simone Spezia. L'idea è ambiziosa, ma non per questo irrealizzabile. E l'apertura del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, la sua presenza, il suo aver ricevuto il protocollo in una sorta di cerimonia pubblica potrebbe rappresentare un punto di svolta. In vista di Expo, il Barilla Center for Food and Nutrition ha elaborato un documento che mira ad essere, con un'analogia, il protocollo di Kyoto dell'alimentazione. Così come in campo ambientale, seppur con alterni risultati, i governi si sono impegnati a rispettare una serie di obiettivi di emissioni, così in campo alimentare tutti gli attori della filiera dovrebbero vincolarsi a risolvere i problemi più urgenti che il presidente dell'azienda Guido Barilla enumera in questo modo. Ci sono un miliardo di persone al mondo che hanno fame e 1,5 miliardi di persone che hanno eccesso di cibo e che muoiono di eccesso di cibo, o che comunque l'eccesso di cibo porta a gravi patologie, il diabete, malattie cardiovascolari, patologie anche legate al cancro. Il secondo grande paradosso è che a fronte ancora una volta di 1 miliardo di persone che soffre la fame, Noi destiniamo un terzo delle produzioni agricole all'alimentazione animale e si incrementa sempre di più la quantità di cibo disponibile destinato alla produzione di biocarburanti e quindi per destinati all'automotive. Il terzo grande paradosso è lo spreco. A fronte di quello detto prima, delle crisi alimentari, un terzo dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera, quindi dal momento delle produzioni agricole fino al momento del consumo, un terzo di tutto il prodotto alimentare viene sprecato. Tra gli obiettivi dunque il dimezzamento dello spreco alimentare entro il 2020, il supporto all'agricoltura sostenibile, la doppia lotta e parallela ai danni della fame e a quelli dell'obesità, così Renzi. Questi obiettivi sono i nostri obiettivi, che riuscire a recuperare e a raggiungere risultati importanti in questi tre obiettivi significa restituire un po' di dignità anche alla politica, perché la fame nel mondo non è questione tecnica, è questione che interpella la domanda del cuore di ciascuno di noi. E quindi sono qui per dirti e per dirvi che faremo insieme volentieri questo tratto di strada. E per il Presidente del Consiglio è anche il momento giusto per tracciare un bilancio di Expo da un lato e di rilanciare la palla in tema di andamento dell'economia nel campo dell'industria alimentare. Rimangono naturalmente due ulteriori questioni prima di chiudere. La prima riguarda l'Expo di Milano. Io vorrei dirvi grazie perché avete dato con il protocollo di Milano l'occasione a ciascuno di noi di riflettere sul fatto che l'Expo è una cosa straordinariamente seria. Noi sui giornali italiani tutte le volte parliamo di Expo soltanto per i problemi che ci sono stati, oggettivi. Chi li negasse sarebbe in malafede, ma che stiamo risolvendo. Non è un caso che il nostro paese abbia messo mano da qualche mese a un'autorità nazionale anticorruzione guidata da un grande giudice come Raffaele Cantone. C'è anche un tema però che riguarda come noi ci poniamo nel mondo anche con le nostre aziende, anche con le storie delle nostre realtà. Noi abbiamo la possibilità di portare l'agroalimentare italiano praticamente dappertutto, dai macchinari alla qualità del nostro cibo. Se ci pensate, alcune occasioni le abbiamo perse e credo che le abbiamo perse per sempre. Se tu vai in America, non credono che la pizza sia nata a Napoli. Pensa che sia Pizza Hut o sbarro. Cioè le grandi catene che hanno, ma dico male, non dico commercializzato la pizza in modo su scala globale, ma è andata così praticamente. Alcune delle intuizioni tipiche dell'italianità sono state prese e portate via per nostra colpa, per nostra responsabilità, per nostri errori. Ecco che è importante che dai macchinari fino ai prodotti di alta qualità noi possiamo provare a utilizzare questo settore come un settore nel quale fare investimenti e creare ricchezza. Questo quindi un protocollo che diventerà appunto un punto di riferimento per l'Expo del 2015, dell'anno prossimo. Allora, è venerdì, dico ad alcuni ascoltatori, però abbiate pazienza, non è che adesso ogni volta che facciamo sentire il Presidente del Consiglio quello che pensa stiamo facendo, porgendo l'acqua, facciamo i portatori d'acqua al Presidente del Consiglio. Se ben ricordate, visto che questo programma magari lo ascoltate da qualche anno, quando uno è Presidente del Consiglio fa numerose dichiarazioni che noi facciamo ascoltare con Berlusconi, con Prodi, con Berlusconi di nuovo, con Monti, con Letta, con Renzi. Okay. Si chiama informazione. Facciamo ascoltare quello che dicono i vari protagonisti, poi commenti, ognuno fa quello che vuole. Adesso il meteo e la pubblicità e poi iniziamo a ragionare di Mario Draghi e della reazione delle borse. Beh, abbastanza innegabile la reazione, ma soprattutto della preoccupazione di Mario Draghi e di come l'ha presa la Germania, visto che è la seconda volta che Draghi nell'arco di 48 ore fa capire che è pronta a usare altri strumenti. Ricorderete che appunto nelle ultime 48 ore si è già espresso tra virgolette a favore anche dell'acquisto di debito di alcuni paesi o di debito dei paesi dell'area euro, poi tutti pensano ad alcuni paesi, questo appunto lo aggiungo io. Meteo intanto. 17.39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa ha chiuso più 3,90% Milano, tra le migliori, la migliore in assoluto, più 2,70 Parigi, più 2,60 Francoforte. E meno forte rialzo a Londra, perché tutto questo rialzo si chiama Mario Draghi e quindi Londra fa più 1,1%. In effetti il commento di borsa potremmo farlo fare ad Alessandro Merli, in collegamento con noi da Francoforte. Alessandro, buonasera, corrispondente Sole 24 Ore, pronto? Sì, buonasera, mi astengo dal commento di borsa, però non c'è dubbio che il discorso di Draghi è stato importante. Ma sì, è quello che ha mosso tutto il mercato, lo spread è calato a 143, i BTP sono andati a 10 anni al 2,21%, minimo storico. Ora, ripeto, c'è una doppia, è un po' schizofrenica oggi la trasmissione, perché da un lato se uno guarda i mercati dice ah che bello Mario Draghi, le borse sono salite. Il problema è che le borse salgono perché Mario Draghi ha detto che la situazione è così brutta che può fare altri interventi. Ora, capisci, è un po' difficile festeggiare, perché non è che uno viva di borsa, vive di quello che vede fuori quando esce per strada. Allora, cos'è, al di là del fatto che la borsa si è entusiasmata perché Draghi ha detto che è pronto ad ampliare l'acquisto di titoli, ha citato lo stampaggio di moneta fatto dalla Banca Centrale Americana e da quella giapponese, ha detto che serve una politica di bilancio che continuerà a cercare di far ripartire un po' l'inflazione. La parte per i mercati buona e la parte cattiva per noi, Alessandro, se mi passi il termine e il paragone. Ma è esattamente così, infatti Draghi ha citato il dato dell'indice PMI di ieri negativo, ha citato il fatto che le aspettative di inflazione stanno calando a livelli che, ha detto, io ritengo che siano eccessivamente bassi, e quindi siamo in uno scenario di crescita bassa, inflazione bassa, che presumibilmente durerà per parecchio tempo. Non va dimenticato che a dicembre, alla riunione del Consiglio della BCE, lo staff degli economisti della BCE presenterà le nuove previsioni sia per la crescita che per l'inflazione, che si estenderanno di un ulteriore anno e che mostreranno appunto che inflazione e crescita sono destinate a restare molto, molto basse. Quindi la preferenza della BCE sarebbe probabilmente di lasciar funzionare, diciamo, di lasciar intervenire le misure che già hanno preso, però la stessa BCE comincia a rendersi conto che queste misure, anche se non tutte sono del tutto operative, l'acquisto di titoli cartolarizzati è cominciato oggi, insomma si rendono conto che probabilmente non saranno sufficienti e quindi ci vorrà qualcos'altro. Quindi è proprio questo peggioramento del quadro dell'economia reale che induce la BCE ad annunciare queste, appunto, quindi da festeggiare queste c'è, nuove possibili misure. C'è poco, al di là del fatto che beh, è meglio che la borsa salga che non scenda, ma qui siamo a Catalano. Invece Alessandro, a me è sembrato un po' strano il silenzio tedesco, non dirà che sono ossessionato dalla Germania, però Draghi in 48 ore ha detto, beh, non escludiamo di comprare debito di singoli paesi, e poi oggi ha citato pure la Banca Centrale Giapponese, la Federal Reserve, dicendo loro hanno fatto stampaggio di moneta. Insomma, dalla Germania Schäuble ha solo detto, ministro delle finanze, che lui è per un ministro delle finanze di carattere europeo, di una nuova governance europea. Cos'è? La Germania non vuole andare contro Draghi, non vuole alimentare le polemiche, oppure, come sostengono alcuni, iniziano a esserci delle opposizioni in Germania, a partire da quella degli industriali, verso questo eccesso di austerità che sta danneggiando la Germania stessa? Ma diciamo che ci sono molti elementi in quello che hai detto. Uno è che indubbiamente l'economia tedesca è in una situazione molto peggiore di qualche mese fa, quando si pensava che nel secondo semestre avrebbe ripreso abbastanza brillantemente. Si è visto invece questa ripresa non c'è stata, sicuramente non nel terzo trimestre, difficilmente nel quarto trimestre, quindi le prospettive dell'economia tedesca sono peggiori rispetto a quello che si pensava qualche mese fa, lo stesso Bundesbank lo ha ammesso. Adesso da qui a dire che improvvisamente i tedeschi sono diventati dei sostenitori del quantitative easing, no, se ne passa parecchio. Schäuble ha fatto appello come sempre quando lo vuole intervenire su qualche situazione alla questione dell'indipendenza della banca, delle banche centrali. Ha detto i ministri delle finanze non dovrebbero parlare di questioni tipo tassi di interesse eccetera eccetera, però non c'è dubbio che in Germania permanga un'opposizione molto forte a un eventuale acquisto di titoli pubblici da parte della BCE. Il fatto che oggi non ci sia stato nessun intervento immediato non vuol dire che questa posizione sia cambiata. Indubbiamente larga parte dell'opinione pubblica, una buona parte dell'establishment politico tedesco, tutti i media e in aggiunta direi la Bundesbank e la Corte Costituzionale sono contrari a questa opzione. Quindi sicuramente non mi aspetterei che nei prossimi mesi, quando ci si avvicinerà di più alla discussione sul quantitative easing, secondo me non prima, le reazioni cioè, le avremo, dici tu. Ma non prima di gennaio si avvicinerà una decisione, non c'è dubbio che le voci tedesche contro il quantitative easing si faranno sentire. Grazie ad Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte. Chiaramente adesso il commento di borsa è più facile dopo questa lettura. Adesso andremo ad analizzare tutti i singoli titoli, o tutti no, per carità, i principali titoli per le principali variazioni. Devo dire Mediolanum più 6%, Unicredit più 5,60%, Banco Popolare più 5,40%, Pop Emilia Romagna più 5,40%, Intesa più 4,90%, Ubibanca più 4,40% e Popolare di Milano più 4,20%, Mediobanca più 3,40%. È tutto effetto Mario Draghi, cioè non è successo niente nel mondo bancario oggi da giustificare questi rialzi. Vedo invece molti messaggi su quanto detto prima per quello che riguarda il Premier Renzi. Schiavi del governo, lecchini del governo. Allora, vediamo di capirci. Uno può pensare come vuole, ci mancherebbe. I messaggi critici anche verso il governo li leggiamo. Tutti, non leggo i messaggi volgari. Abbiamo criticato il governo quando ci sembrava che la finanziaria stesse così girando a vuoto. Abbiamo chiesto, e lo faremo, ne parleremo anche più avanti, che il governo sia più incisivo quando va in Europa. Abbiamo criticato il semestre di presidenza italiano, che mi sembra che stia così evaporando lentamente come incisività. Cioè, le critiche che riteniamo opportune le facciamo al governo, però voglio dire, questi messaggi ormai siete in ginocchio nei confronti di Renzi. Mi ricordano molto i messaggi che dicevano che eravamo in ginocchio nei confronti di Berlusconi, schiavi di Berlusconi, o quelli che davano dei comunisti perché facevamo ascoltare Prodi oppure Letta. Cioè, voglio dire, sempre il solito discorso: uno non ha piacere che si faccia sentire la voce del Presidente del Consiglio. E rassegnatevi, Presidente del Consiglio è Renzi. Non l'ho votato io, non l'ha votato nessuno, ma questo è il Presidente del Consiglio. Mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Archiviamo le banche, appunto BTP a 10 anni ai minimi storici al 2,24%. Dopo il traffico, invece, i titoli energetici che sono andati molto bene. Eni più 4,70 ed Enel più 4,40%. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, poi c'è chi continua a scrivere anche sulla falsa fatturazione della punibilità sopra i 1000 euro. Il governo già da domani inizierà l'esame, ha già iniziato l'esame di una modifica per cui sotto i 1000 euro non è prevista la non punibilità per il reato di frode mediante uso e emissione di fatture per operazioni esistenti, quindi niente sanzioni penali ma solo amministrative. È vero, e l'abbiamo data. Allora, Guido Maurino, Eni ed Enel. Sì, allora e anche generali, così facciamo. Per quello che riguarda Eni, oggi ha guadagnato il 4,69%, ha approfittato, come tutti i titoli legati al petrolio in Europa, del rialzo delle quotazioni del greggio, che proprio per le ragioni che citavate anche voi, da Draghi all'abbassamento dei tassi in Cina, hanno ridato un pochettino più di speranza agli operatori sulla situazione economica. Per quello che riguarda invece Enel, che ha guadagnato il 4,43%, oggi ha annunciato il prezzo di vendita del 22% della controllata Endesa. Il prezzo di vendita è stato 13,5 euro, ha consentito un incasso notevole, oltre 3 miliardi di euro che serviranno al gruppo per andare ad abbattere l'indebitamento. Infine, per quello che riguarda Generali, che ha guadagnato il 2,93%, oggi il titolo ha superato quota 17 euro, arrivando a 17,2 euro, sono è una soglia psicologica e sono anche quotazioni che non vedeva dal gennaio di quest'anno. Oggi non c'è stata nessuna notizia particolare, ma in settimana c'è stata la presentazione dell'amministratore delegato Mario Greco a Londra, in cui ha fornito tutta una serie di indicazioni sulla società, ha annunciato il nuovo piano che arriverà a maggio 2015, indicazioni positive che hanno consentito al titolo comunque di approfittare di una buona giornata di borsa. Ancora, l'unico titolo che è andato non così bene, perché ha perso uno 0,08, ma in questa giornata è un dato negativo, è STMicroelectronics. Ieri c'è stato un avviso da parte dell'amministratore delegato, se ho visto bene. L'amministratore delegato ha detto che la società potrebbe non raggiungere gli obiettivi fissati per il 2014, in particolare quelli relativi alla marginalità, risentendo di una domanda più debole del previsto nel quarto trimestre. E su questa indicazione il titolo ha ceduto un frazionale 0,08%. Allora, altri titoli rapidamente, oltre a quelli citati, Atlantia più 5%, Prismian, Lex Pirelli Cavi più 4,40%, CNH Industria più 4,41%, Tenaris più 4,30%, Buzzi Unicem più 4,26%, come la Pop Milano, Finmeccanica più 4,13%, e tra i migliori e peggiori in assoluto, RG Capital più 9,97%, ETWay più 8,70% e D'Amico più 7,44%, i peggiori. IKF meno 8,35, Seat Pagine Gialle meno 8,33 e Hyreal meno 4,23%. Grazie e buon fine settimana ai colleghi di Radio Corri sulle 24 ore. Grazie a Guido Maurino. Adesso iniziamo la lunga pagina che tiene assieme lo scontro, nuovo scontro tra governo e sindacati, sciopero e soprattutto riforma del mercato del lavoro e le preoccupazioni di quanto sta avvenendo in Europa. Allora, a chi continua a scrivere su Renzi, vorrei sapere: ma dov'era lei? Dove eravate in questi anni, in questi 15 anni, visto che la radio ha 15 anni, quando raccontavamo che il paese non stava funzionando nonostante tutti gli annunci, che tutto andava bene, che bisognava fare le riforme, tutti bravi adesso? Vorrei sapere che cosa avete votato in quegli anni, dove eravate, perché sembrava che fossimo solo noi, eravamo disfattisti, sempre negativi, a dire che il paese non reggeva sulla produttività, non reggeva su tante altre cose. Adesso tutti pronti all'italiana. Ah boh, dai. Allora, Landini che dice gli onesti non stanno con Renzi. Noi stiamo qui in piazza per chiedere di ridurre l'età pensionabile, di ripristinare le pensioni d'anzianità e di avere un sistema che dia le pensioni anche ai giovani. Apra un tavolo con noi su questi temi, se è d'accordo, e riapra la strada a questa discussione. E soprattutto deve rendersi conto che oggi lui il consenso di chi lavora, dei giovani che stanno cercando lavoro e delle persone oneste in questo paese, lui non ce l'ha. E allora deve decidere da che parte stare. Allora, Landini l'ha detto questo, poi ha corretto in modo, ma questo ha scatenato le polemiche. Allora chi vota Renzi non è onesto? È chiaro che una frase del genere non ha nessun senso, nemmeno logico, non si può dire. Però il senso di Landini era: i lavoratori, le persone che pagano le tasse, le persone oneste. Sulle persone oneste è stato uno scivolone, infatti poi Landini ha corretto, ma non vorremmo restare sul l'interpretazione della frase di Landini, ma sullo scontro che poi c'è stato. Ne parliamo dopo il GR24 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Stavamo affrontando il tema del nuovo scontro governo-sindacati. Abbiamo ascoltato le parole che hanno creato subbuglio di Landini, leader della FIOM, che poi ha corretto, ha detto: non ho mai detto che, non ho mai pensato che Renzi non abbia il consenso degli onesti, non ha il consenso della maggioranza delle persone che lavorano e pagano le tasse. Ha continuato poi Landini: Renzi sta trasformando il lavoro in schiavitù, vuol far passare l'idea che per lavorare si deve accettare di tutto. Andremo avanti nelle piazze se non cambiano le misure, chiaramente, del Jobs Act, della riforma del mercato del lavoro. Il presidente di Confindustria Squinzi invece ha detto che Confindustria è consapevole degli sforzi del governo per realizzare le riforme strutturali che l'Italia aspetta da tanto tempo. Emma Marcegaglia, nel suo ruolo di presidente della Confindustria Europea, ha detto che il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro, è una buona riforma, e il ministro Padoan ha detto: le proteste segnalano che probabilmente le riforme stanno andando nella giusta direzione. E poi il neo segretario della UIL Carmelo Barbagallo ha detto: il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro, grida vendetta, occorre fare un patto generazionale. Renzi, il presidente Renzi, ci stupisca, si inventi una scusa per farci evitare lo sciopero. Comunque ci stupisca lui, se vuole darci una scusa per non fare lo sciopero, noi siamo pronti. Io mi auguro che il Paese possa uscire da questa crisi mettendoci tutti assieme a discutere seriamente su come si esce. Se facciamo questo, forse faremmo un favore al Paese. Così appunto il neo segretario della UIL Barbagallo, e questa è la pagina, diciamo, che riguarda il botta e risposta, anche dura e acceso, tra il governo, inteso come Presidente del Consiglio Renzi, e i sindacati. Poi, come ricordavo, c'è un altro fronte oggi che è più di carattere europeo, che cerchiamo di tenere assieme. Perché? Perché i BTP a 10 anni, il rendimento del nostro debito a 10 anni è sceso al 2,24%, ossia il minimo storico, lo spread è a 146 punti, dopo che è intervenuto in mattinata Mario Draghi. Il presidente della Banca Centrale Europea ha detto in un congresso a Francoforte: la situazione dell'inflazione nell'area euro è sempre più difficile, la Banca Centrale Europea farà tutto il necessario per l'inflazione, siamo pronti per combattere la scarsa inflazione, siamo pronti ad ampliare i canali dell'intervento e, aggiungendo, come ricordavamo prima, e siamo pronti anche ad ampliare l'acquisto di titoli. E ha citato espressamente il quantitative easing messo in atto dalla Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, e dalla Banca del Giappone. Quantitative easing altro non è che lo stampaggio di moneta. Lo Stato emette debito che viene comprato dalla banca centrale, e nel far questo la banca centrale emette liquidità. Ha continuato Draghi: servono riforme per il rilancio degli investimenti e serve una politica di bilancio dell'area euro espansiva, cioè che punti alla crescita nel rispetto delle regole. Su questo oggi è intervenuto anche il ministro dell'economia Padoan, perché ha detto: va bene l'impegno della banca centrale europea, adesso serve l'azione dei governi. Il vero problema è l'andamento deludente di tutta l'area euro. Sentiamo questo passaggio in inglese del ministro dell'economia Padoan. I'm afraid Mario Draghi is signaling a real problem, that is the disappointing performance of the European economy, especially the euro area. We've been revising down growth forecast over the past few months, and certainly more action from the ECB is welcome, but that's not enough. We need to do other things on the government side as well. In inglese, nell'ottimo inglese del ministro dell'economia, quello che abbiamo appena detto: Mario Draghi ha ragione, si sta muovendo bene, ma serve anche l'azione dei governi. Padoan poi ha detto che il mix di misure della legge finanziaria italiana, della legge di stabilità, che dovrà ottenere via libera martedì da Bruxelles, sarà apprezzato dall'Unione Europea. Nel 2015 vedremo un ritorno della crescita. E però ha detto appunto: non basta quello che vediamo. E gli ha fatto eco oggi anche Emma Marcegaglia, nel suo ruolo di presidente di Business Europe, che è l'associazione che riunisce le confindustrie europee. Ha detto: attenzione, il piano Juncker per 300 miliardi di investimenti pubblici è una buona partenza, ma non basta, ne servono almeno 1000. Bisogna fare investimenti pubblici, è importante, sono calati molto in Europa e anche in Italia, bisogna soprattutto investire in trasporto, in reti digitali, in reti energetiche di gas. bisogna poi rimuovere tutti gli ostacoli che oggi hanno fatto cadere gli investimenti privati. C'è un problema di costo nel fare investimenti in Italia e in Europa troppo alti, c'è ancora una tassazione troppo alta, costo dell'energia troppo alta, burocrazia a livello nazionale e europea troppo alta, c'è un problema di accesso alla finanza che ancora non va bene. Noi chiediamo che la Banca Europea degli Investimenti abbia un ruolo su questo, aiuti a finanziare soprattutto le piccole e medie imprese che hanno problemi, e chiediamo appunto che ci sia anche proprio meno burocrazia a livello europeo. Quindi un documento completo, molti investimenti pubblici, molti investimenti privati. Quello di Juncker è un piano che va bene, ma è solo una piccola parte, bisogna fare molto di più. Allora, quindi le borse europee festeggiano per le parole di Draghi, i cittadini europei sono preoccupati invece, se vogliamo usare questo così doppio fronte, sono preoccupati per le parole di Draghi, perché le borse e gli investitori sono contenti che Draghi abbia detto siamo pronti anche ad ampliare l'acquisto di titoli e abbia citato lo stampaggio di moneta, ma i cittadini dell'area euro sono preoccupati da un Draghi che dice, per esempio, attenzione, l'indice PMI di ieri, quello che ricordavamo, l'indice dei direttori d'acquisto europei, ha suggerito che è improbabile una ripresa più forte nei prossimi mesi. Gli ordinativi sono in calo per la prima volta dal 2013, dal luglio 2013, gli ordinativi europei. Professor Gustavo Piga, che insegna politica economica all'Università di Tor Vergata, buonasera. Buonasera, come sta, dottor Barison? Bene, abbastanza bene, venerdì diciamo meglio. Allora, ma non è come sto io come conduttore, ma come europeo invece mica tanto bene, così le rispondo anche alla domanda, perché capisco l'euforia di chi investe in borsa, alla possibilità che la BCE faccia mosse ancora più forti, vada alla fine a acquistare debito dei paesi, ma insomma a me preoccupa lo scenario economico reale, non tanto quello del mercato finanziario. Allora, professor Piga, come stanno assieme? Da un lato lo scontro politico che c'è tra il governo e i sindacati, l'articolo 18, riforma del mercato del lavoro, ci sono anche delle elezioni parziali regionali domenica, e però sappiamo che il Jobs Act serve a Matteo Renzi, la riforma del mercato del lavoro serve al governo e a Matteo Renzi per dire all'Europa noi le riforme le stiamo facendo e adesso contrattiamo margini di flessibilità maggiore. Come si tiene assieme questo con quanto ha ricordato Mario Draghi, se vuole anche il ministro dell'economia Padoan? È un quadro molto, molto decisamente molto complesso, è vero, ma io credo che bisogna un attimo guardare a che cosa vuol dire riforma. Infatti, io ho sentito Piercarlo Padoan dire queste proteste contro le riforme avranno un impatto, perché sennò non ci sarebbero proteste. Sì, ha detto, vero, il fatto che protestino vuol dire che queste riforme sono efficaci, sennò non vi sarebbero proteste. Sì, un cane che abbaia non necessariamente non abbaia per un buon motivo, quindi io su quello tengo un giudizio sospeso. Potrebbe essere una riforma, però si ricordi sempre che avviene in un contesto in cui le aziende comunque non assumono, non tanto in questo momento perché non possono poi licenziare, ma perché non vedono la domanda là fuori, e questo è in parte anche un qualche cosa che ci dice che forse anche se passasse questa riforma non so quanto lontano andremo. Però c'è anche il cane che non abbaia di notte e nessuno lo nota, e questo è un problema. Voglio dire, il fatto che la vera riforma, che io sempre in questa trasmissione ho detto serve al paese, cioè la spending review, che ormai è passata non in secondo piano ma in quarto piano, che sarebbe anche quella che forse, se portata al tavolo, stavo per dire tedesco, vedere come ragioniamo, al tavolo europeo, veramente potrebbe convincere di più, perché la mia impressione è che non è che sia scaldata molto l'Europa. Dopo che abbiamo annunciato il Job Act continuano a dire che noi dobbiamo fare queste riforme, no? Tra virgolette. Detto questo, detto che è vero che dobbiamo arrivare con un chip al tavolo negoziale, speriamo che sia il Job Act, anche se io non ci credo che sarà il Job Act a cambiare il potenziale del nostro paese a breve, penso di più che sia la spending review. Rimane la questione chiave di che cosa fa ripartire la domanda interna, e se qui nemmeno Piercarlo Padoan giustamente dice che basta un quantitative easing che comunque stenta a partire. C'è lo stampaggio di moneta, diciamo? Sì, lo stampaggio di moneta per comprare sul mercato secondario, comunque credo sì, che certo. Non andrebbero mai sul mercato primario. No, no, certo. Credo che la questione chiave sia capirsi bene, perché se Piercarlo Padoan pensa che quello che ha presentato nel documento di economia e finanza, anche seppur corretto da quello che ha chiesto l'Europa, sia la famosa manovra espansiva, beh, oddio, facciamoci il segno della croce e teniamoci stretto, perché l'aereo va veramente... No, però io adesso non voglio difendere, non ha bisogno di essere difeso da me, il Ministro dell'Economia, però il governo ha detto che questa è una manovra espansiva, non è una manovra che aumenta le tasse. Non penso proprio... Non penso, sto citando quello che dice il governo. Non penso che nemmeno Padoan possa dire che grazie a questa manovra ripartiranno i consumi interni, cioè è una manovra, è quello che il governo è riuscito a fare con il vincolo del 3% senza aumentare. Esatto, e qui la domanda, allora il punto chiave è questo: su cosa negoziamo? Perché se il governo mi dice che lui nel 2016 porta il deficit dal 3 di oggi all'1,8% tra un anno e mezzo, questo vuol dire altra austerità per 1% di PIL. Guardi che i numeri della pressione fiscale dati dal governo italiano per quello che è stato costretto a fare dall'Europa sono che la pressione fiscale l'anno prossimo, cioè il 2015, sale da 43,4 a 43,8, questa si chiama austerità, dottor Barisoni. Allora, o ci mettiamo d'accordo che l'Italia a voce alta, e sta forse cominciando a farlo, dice no, ci si ferma al 3%, noi cominciamo la spending review, ma ci si ferma al 3%, che non è badi bene quello che ha detto finora, perché ha detto arriviamo a ridurre il deficit quasi a zero in 2 anni. Se non arriviamo a dire no, noi ci fermiamo al 3%, volete farci le multe? Provate a farci le multe, così l'Europa muore letteralmente, perché un'unione che si regge sulle multe, lei si immagini se lo va a raccontare all'Alabama, al Mississippi, al Massachusetts e alla California, che si fanno le multe tra loro invece che la solidarietà. Quindi lei in questo momento o sbatte veramente i pugni sul tavolo dicendo va bene, chiamiamo il bluff, vieni a farmi le multe, ma va di bene che c'è la storia della Francia che ci aiuta, o se no tutto questo è un vano parlare. Allora, professor Pighe, lei ha toccato vari temi che devo anche un po' spiegare: il 3%, perché continua a peggiorare il debito, non numerico e basta, ma nel rapporto col PIL, visto che il PIL non cresce, è l'esempio francese. Lo facciamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, professor Pighe, ricapitolando, lei dice... il 3% è il tetto che noi garantiamo all'Europa di non superare, il 3% nel rapporto deficit-PIL. E quindi, visto che noi abbiamo detto che invece arriveremo vicini allo zero nei prossimi 2 anni, manteniamo il 3%, quindi non entriamo in procedura di infrazione, ma non promettiamo più e smettiamo questa promessa di ridurre il deficit. Faccio notare che l'anno prossimo, se noi mantenessimo il deficit al 3% invece che portarlo al 2%, si libererebbero risorse per 15-16 miliardi di euro. E come lei ricordava con l'esempio francese, dalla parte nostra avremo la Francia, che la Francia non solo non è sotto il 3%, ma ha detto che lei per i prossimi 2 anni non ci pensa proprio a arrivare al 3%. Quindi noi potremmo dire, vabbè, stiamo nel tetto, non ne infrangiamo le regole, ma non ci chiedete sforzi ulteriori, ho capito bene? E le aggiungo questo, finalmente avremo la prova provata che avendo questo 1%, questi 16 miliardi per fare i famosi investimenti pubblici che stanno crollando letteralmente in tutta Europa, come ha mostrato Draghi e sicuramente in Italia, succederà una cosa molto strana per i teorici dell'austerità, che finalmente vedremo il debito pubblico sul prodotto interno lordo finalmente calare. Lei si ricorda che in questi 4 anni di austerità il debito pubblico su PIL è scattato verso l'alto. Certo, questo è un altro motivo, ossia il rapporto deficit e debito è un rapporto deficit tratto PIL, debito tratto PIL. Se il denominatore, lo spiego perché sono elementi, se il denominatore, cioè il PIL, non cresce, va in negativo, tu puoi ridurre quanto vuoi il debito nominale, i miliardi di euro o il deficit, ma il rapporto continuerà a crescere. Infatti il rapporto è salito al 138%, adesso sì, sto controllando il dato adesso, per cui è la stessa cosa vale per il deficit, cioè attenzione, se tu non fai crescere il denominatore puoi tagliare quanto vuoi, ma se il denominatore è zero o meno di zero continuerà a aumentare il rapporto. Lei dice, se faremo ripartire gli investimenti crescerà il PIL un po' di più e magicamente, tra virgolette, anche il debito rapporto al PIL calerà, il rapporto complessivo calerà. Capito bene? Assolutamente sì. Quello che dico è, adesso c'è un posizionamento tattico, strategico del governo, perché c'è questa decisione importante tra una settimana della Commissione sui conti pubblici preparati dall'Italia, e quindi la grande speranza è che la Commissione europea dica: il piano che ci avete presentato ci va bene. Però attenzione, che non abbiamo risolto nulla, certo abbiamo un problema in meno, ma questo piano che abbiamo presentato non tirerà fuori l'Italia dalle secche. C'è bisogno di uno sforzo immenso, ma guardi che i tedeschi, se lei poi gli dice le cose in faccia, lo apprezzano, e lì parte un dibattito importante. Se continuiamo a criticare i tedeschi dietro le spalle e non parlandogli in faccia, l'Europa non si costruisce, l'Europa va a morire. Allora, quindi lei dice, attenzione che adesso noi dobbiamo andare, io in realtà leggo questo più di lei anche alla riforma del mercato del lavoro, non sto dando un giudizio su questo Jobs Act, che adesso vedremo quanti emendamenti accoglierà, dico solo che andare a Bruxelles e dire abbiamo fatto la riforma del mercato del lavoro e ce l'abbiamo fatta, è un elemento anche di forza politica, giusta o sbagliata che sia questa riforma, è un elemento di forza politica. E allo stesso modo lei aggiunge, andate anche a Bruxelles a dimostrare che sulla spending review non erano tutte chiacchiere e state riducendo la spesa pubblica. A quel punto Renzi, secondo lei, dovrebbe puntare i piedi, se ho ben capito, e dire: bene, noi abbiamo fatto queste cose, adesso dateci i margini nazionali, perché appunto mi avanza un punto percentuale di PIL, 16 miliardi per l'anno prossimo, da mettere in investimenti o in detassazione, e poi il piano europeo degli investimenti. Ed è il momento giusto per farlo, perché avrebbe l'alleato più strano possibile in questa battaglia, che sono gli imprenditori tedeschi. Gli imprenditori tedeschi cominciano veramente a sentire il peso di questa crisi italiana, nel senso che il loro export non tira, malgrado là fuori dall'Unione Europea le cose vanno abbastanza bene. Quindi questo è il momento di farlo. E il fatto che l'economia tedesca non tiri ci rende l'opposizione tedesca meno forte. Quindi è il momento per farlo. Perché secondo lei il governo potrebbe non farlo? Il governo potrebbe non farlo per paura, per timore, per un assurdo timore reverenziale. Io ho visto delle interviste che non mi sono piaciute per niente. Sono contento che Piercarlo Padoan stia riprendendo coraggio e oggi comincia a alzare la voce. Ho visto un incontro dopo il Fondo Monetario Internazionale, dove noi eravamo presidenti di turno dell'Unione Europea, dove c'erano Schauble, Padoan e Larry Summers, che è l'ex ministro del tesoro americano, dove la lotta è stata tra Stati Uniti e Germania. L'Italia, rappresentata da Padoan, ha parlato per 3 secondi dicendo quanto stavamo facendo per le riforme, e tutta la posizione europea è stata rappresentata da Schauble. Allora, se questo è il Ministero dell'Economia a cui Schauble pensa, siamo alla frutta, perché se l'Europa non si regge sulla rappresentanza di tutti gli interessi, questo sarà un ministero dell'economia tedesco, e alla fine non soltanto molliamo la Banca Centrale Europea, rischiamo di mollare la Banca Centrale Europea con la sua sola stabilità ai prezzi ai tedeschi, ma molliamo anche la politica fiscale. Padoan in questo semestre rappresentava l'Unione Europea e solo a lui che spettava di parlare. Io spero che loro ritrovino il coraggio, non soltanto in Italia, di affrontare i sindacati là dove è necessario affrontarli con le parole giuste, ma è la stessa forza dobbiamo mettere ai tavoli, non sui tweet, ai tavoli con i tedeschi. Guarda, i tedeschi lo apprezzano tantissimo quando uno gli carica addosso. Guarda, mi piace molto quello che hai detto, ripeto, con qualunque sia il giudizio, vedo molti sms sulla riforma del mercato del lavoro, questo glielo sottoscrivo appieno, nel senso che da questo punto di vista, se hai forza, e questo va riconosciuto al governo, di scontrarti con le parti sociali in Italia, e non guardi in faccia nessuno, e va bene così, e vuoi svecchiare il paese, ripeto, al di là del giudizio se lo stia facendo oppure no, se sia un blef oppure se sia coraggioso Renzi, utilizza la stessa forza anche quando vai a Bruxelles e di: bene, avete non rotto, non lo puoi dire in questo modo, le riforme le stiamo facendo, che andavano fatte, però adesso basta con questa. Lei si riferiva a Schäuble, che oggi ha detto occorre un ministro delle finanze europeo, di carattere europeo. Sì, basta che poi non sia tedesco il ministro delle finanze, aggiungo io, sennò annettiamo definitivamente l'Italia e la Germania. Che il governo usi lo stesso coraggio in Europa. Io veramente spero che da questo punto di vista la delusione forte che abbiamo avuto con Monti in Europa, non in Italia, e con Letta in Europa, cioè tutti un po' deboli, timidi, tutti molto reverenziali, non l'avremo con Renzi. Cioè, se hai questo coraggio con le parti sociali italiane, adottalo anche nei confronti dei tedeschi, ma non quando vieni in Italia e parli gli italiani, quando vai lì e batti i pugni sul tavolo. Sono d'accordo con lei che delle volte è sembrata anche come una comunicazione facimmo a faccia feroce, dicono a Napoli, no? Adesso andiamo, e poi uno va a Bruxelles, a Francoforte, torna, tutto bene, l'Europa ci ha apprezzato, ma vorremmo vedere un po' più di grinta e di pugni sul tavolo. Grazie a Gustavo Piga, che insegna economia politica all'Università di Tor Vergata. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto per questa puntata, per questa settimana di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Un augurio di buon fine settimana soprattutto a chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.